Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Anche le giornaliste scientifiche sanno piangere. Voi direte che cosa c'entra? Ne parliamo fra un po'. Buonasera, benvenuti a Möbius. Ascoltiamo i titoli di questa puntata. Il santuario dei cetacei è quasi vuoto. Questo l'allarme lanciato da Greenpeace. Facciamo il punto scientifico della situazione reale nel Mar Ligure. Individuata la struttura di una proteina che consente la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita. Si potrebbe chiamare la proteina della fecondazione. Nelle questioni ambientali e in quelle climatiche in particolare, c'è un interrogativo di fondo che deve trovare una risposta. Sono possibili i cambiamenti improvvisi, ovvero un rapido precipitare dei fenomeni? Hard disk molecolari, aperta in Italia. Una nuova strada per la miniaturizzazione delle memorie. Fiat Lux, sia fatta luce. Una frase di biblica memoria, ma anche il nome di un progetto piuttosto ambizioso. Installare un impianto fotovoltaico su ogni chiesa italiana. C'è un istituto italiano, si chiama Tetis, è il nome dell'antica dea greca del mare, e infatti l'istituto Tetis si occupa di cetacei. Sabina Airoldi, buonasera Sabina. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. È una delle ricercatrici dell'istituto Tetis. Siamo qua di fianco Chiara Albicocco. Ho visto alcune lacrime nei suoi occhi, anche sì, perché buonasera Chiara... Federico, buonasera a tutti. Io sono stata ospite anche della Tetis, quindi non potevo crederci. E Chiara è anche un'etologa. Allora, la notizia che è circolata negli ultimi 10 giorni, ed effettivamente era abbastanza impressionante, arrivava da Greenpeace, e cioè il grande santuario delle balene, dei cetacei, che noi abbiamo tra la Liguria e la Sardegna e la Corsica, sembrava praticamente messo fortemente a rischio, con un calo di presenza di animali veramente preoccupante, oltre il 50%. Sì, mi pare chiara, introducendo subito questo argomento, che fortunatamente le cose però paiono non essere così. Sì Federico, dobbiamo proprio fare il punto su quella che è la situazione scientifica del santuario dei cetacei. La situazione non è così drammatica come si era letto anche su alcune testate nazionali che appunto avevano riportato la notizia di Greenpeace. Abbiamo chiamato Sabina proprio per avere il polso della situazione dal punto di vista scientifico, e in effetti lei mi ha tranquillizzato. Sabina, puoi tranquillizzare anche gli ascoltatori, per cortesia. Dunque io ci proverò. In realtà non vorrei tranquillizzarli più di tanto, nel senso che io naturalmente mi esprimo come il rigore scientifico mi permette di esprimermi, ovvero i dati che sono stati raccolti durante questo survey che è stato fatto con Greenpeace, ma anche dall'Istituto Tetis, nel senso che un nostro ricercatore era a bordo e quindi poi i dati raccolti sono stati anche da noi analizzati. Diciamo che questo survey, confrontandolo con un survey fatto 16 anni fa nel 92, sempre in collaborazione sempre da Greenpeace, sostanzialmente svela in realtà solo ed unicamente per una specie, la Stenella striata, l'indicazione chiara di effettivamente un calo delle presenze. Ora però naturalmente ovviamente la scienza ci impone di essere molto cauti nell'esprimere una reale diminuzione della popolazione, cioè un calo della popolazione, nel momento in cui noi andiamo a fare un confronto con due monitoraggi a distanza di 16 anni, quindi un lungo tempo molto lungo, e anche con periodi brevi, nel senso che questo il survey fatto da Greenpeace è durato 8 giorni e ha coperto circa 1200 chilometri di percorso. Quindi naturalmente questo ci deve far, cioè la scienza ci obbliga insomma a essere cauti nell'esprimere dei risultati. Il dubbio è che la situazione sta effettivamente cambiando, se non per tutte, almeno per alcune popolazioni. Sappiamo che nel nostro santuario abbiamo 8 diverse specie di cetacei, qui stiamo parlando sostanzialmente della stenella e della balenotte. eccetera. Ecco, infatti allora, io vorrei specificare che dai dati che voi avete raccolto, quindi dalle statistiche scientifiche che voi avete fatto, è risultato questo calo significativo soltanto per la stenella. La stenella, per chi non lo sapesse, è un cetaceo, un delfino piccolino, di piccole dimensioni, è molto elegante. Ecco, per le balenottere tutto questo non è stato dimostrato, cioè non ci sono i dati sufficienti per affermare che si siano ridotte del 75%, si diceva addirittura. Esatto, diciamo che per poter ottenere questi risultati occorrono delle analisi statistiche particolari che necessitano di un campione più grande dei 12 avvistamenti che sono stati fatti. Durante quegli 8 giorni sono stati fatti 12 avvistamenti di balenottera per un totale di 13 esemplari, che naturalmente non consentono in realtà proprio nemmeno di applicare l'analisi, quindi arrivare a dire che effettivamente rispetto ai 16 anni prima quante sono effettivamente le balenottere. Quindi è una cosa che non si può dire. Naturalmente è un'indicazione, insomma, ma non è un risultato scientifico che possa indicare chiaramente che c'è un calo del 75%. Anche perché, Eroldi, penso che le balene non siano, come voglio dire, in un condominio con degli orari fissati, casa, lavoro, studio, vanno in giro, quindi ci possono essere anche delle variazioni. Certi momenti dell'anno sono presenti, poi magari per un lungo periodo se ne vanno in giro e poi ritornano. Insomma, non è una, no? Una cosa così rigida. Sì, assolutamente sì, non sono dei coralli attaccati al substrato, sono animali che si muovono molto e proprio i nostri studi dimostrano una grande variabilità interannuale nella loro distribuzione, cioè di anno in anno noi li vediamo proprio distribuiti in modo diverso, quindi ovviamente il fatto di averne viste meno e questo calo della loro frequenza di avvistamento, della loro abbondanza, potrebbe anche essere dovuta proprio a uno spostamento della loro distribuzione. E non per forza all'inquinamento, all'eccessivo traffico marittimo, giusto? Insomma, allora, non ci sono i dati per dimostrarlo. Dunque, allora, questo è indubbio che il santuario sia una zona dove sono presenti moltissime minacce per i nostri cetacei. Il traffico marittimo è uno dei più elevati di tutto il Mediterraneo, l'inquinamento è molto elevato, sia di tipo chimico che di tipo acustico, il problema del sovrasfruttamento della pesca e delle catture accidentali. Quindi è assolutamente vero che in realtà il santuario è una zona che presenta molte minacce. Ma naturalmente noi al momento non possiamo trovare necessariamente o individuare con certezza dei nessi causali fra il cambio della loro distribuzione e le minacce che comunque purtroppo sono presenti nel nostro santuario. Va bene, io personalmente almeno mi sono abbastanza tranquillizzata, ma Sabina, ancora parecchio lavoro è da compiere. Assolutamente sì, perché comunque noi scienziati, anche la scienza, è preoccupata per la situazione del santuario e tutti auspichiamo che gli organi gestionali dedichino particolarmente attenzione a comunque queste avvisaglie e implementino tutte le attività di monitoraggio e di ricerca al fine proprio di, insomma, individuare tutte le regole di conservazione adeguate per il santuario e per i cetacei. Va bene, d'accordo, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti voi, gli ascoltatori. Niente di più fondamentale nella storia della vita del momento in cui lo spermatozoo deve inserirsi nell'ovocita. Si è probabilmente scoperta una proteina che ha un ruolo cruciale in questa impresa, nel fare gol, come dice Paolo Villaggio all'inizio di questo servizio di Barbara Gallavotti, che appunto vi parla di questa nuova scoperta. Avanti tutti! Qua, forza ragazzi! Imbucatevi! Oh, forza com'è duro! Via! Via! Via! Vai! Vai! Pronti! Via! Dai! Dai! Dai! Oh! Oh! Rete! Rete! Non tutti gli spermatozoi avranno la forte personalità di quello che parlava con la voce di Paolo Villaggio in Senti chi parla. Tutti però hanno il medesimo problema, raggiungere un oocita e fecondarlo. Per questo, almeno nei mammiferi, sembra essere fondamentale una proteina che si trova sulla superficie dell'ovulo e si chiama ZP3. La proteina in sé è nota da circa 30 anni, però se si vuole utilizzare ciò che sappiamo su di essa per rendere possibile la fecondazione, nel caso vi siano difficoltà, oppure per impedirla se è indesiderata, occorre conoscere qualcosa di più della sua semplice esistenza. Bisogna sapere qual è la sua struttura tridimensionale. I ricercatori non erano mai riusciti a ricostruirla, a risolverla, come si dice in gergo, ma ora un gruppo di studiosi del Karolinska Institutet di Stoccolma sembra aver risposto al quesito, almeno parzialmente. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature e ne parliamo con Luca Iovine, uno degli autori. Buonasera. Buonasera. Parliamo allora della proteina ZP3 e proviamo a mettere a fuoco perché è interessante conoscerla meglio. Dunque, tutte le uova degli animali hanno uno o più rivestimenti intorno a sé e questi rivestimenti sono cruciali per la loro crescita, la fecondazione e lo sviluppo embrionale precedente all'impianto, nel caso ovviamente dei mammiferi. Sempre nei mammiferi, per quanto riguarda la fecondazione, uno dei componenti della membrana che circonda l'uovo, che si chiama zona pellucida, è appunto la proteina ZP3, che non solo ha questa funzione strutturale di formare il rivestimento, ma agisce anche come recettore primario per lo spermatozoo, cioè la prima proteina che viene riconosciuta dal gamete maschile. Di conseguenza, avere informazioni su ZP3 è importante da un canto per capire possibili cause di infertilità e dall'altro potrebbe aprire la via allo sviluppo di anticoncezionali non ormonali. E qual è stata la difficoltà nel conoscere la struttura tridimensionale di questa proteina? Il gene di ZP3 è stato clonato parecchi anni fa, la proteina è nota da circa 30 anni, ma è stato molto difficile determinare la struttura perché questa proteina, almeno in condizioni native, è estremamente modificata in maniera eterogenea, cioè attaccata alla proteina ci sono molte catene zuccherine, le quali catene zuccherine variano essenzialmente da molecola a molecola. Per formare cristalli noi abbiamo bisogno che tutte le molecole siano omogenee e di conseguenza questo era un grosso problema. In che modo l'avete risolto? Dunque, essenzialmente abbiamo deciso di risolvere la struttura di una parte che in un particolare organismo, in questo caso abbiamo scelto il topo, non contiene anche nella proteina nativa degli zuccheri, per cui abbiamo completamente bypassato il problema. Quindi adesso però il problema diventa come passare dal topo all'uomo, un problema fra l'altro tipico della biologia sperimentale. Sì, esatto. In realtà, per quanto riguarda questa particolare parte di cui abbiamo risolto la struttura, le due proteine sono estremamente simili e quindi già così possiamo costruire un modello, diciamo, molto affidabile della corrispondente parte della proteina umana. Ma ovviamente l'obiettivo successivo sarà quello di risolvere la struttura della proteina intera e per questo sarebbe ovviamente molto più interessante passare direttamente all'omologo umano ed è quello che stiamo cercando di fare al momento. Quanto è lontano l'anticoncezionale non ormonale? Questo è sinceramente molto difficile da dire, però diciamo che finalmente c'è un primo punto di attacco, nel senso che questo non è un enzima e quindi non c'erano informazioni ovvie su che tipo di molecola uno potesse sviluppare che si attacchi specificatamente al ZP3. Quindi avere la struttura tridimensionale, diciamo appunto, dà un primo tipo di informazione che potrebbe essere utilizzato verso questo obiettivo. Perché se fosse stato un enzima sarebbe stato più semplice? Beh, perché appunto spesso gli enzimi metabolizzano dei composti che ci sono negli organismi e quindi si possono usare questi composti come punto di partenza per disegnare dei farmaci che ci assomiglino, ovviamente blocchino la funzione dell'enzima. ZP3 non lega una molecola, una piccola molecola di questo tipo, diciamo. Di conseguenza bisogna avere un tipo di informazione che sia indipendente dal fatto di avere questo tipo di legame a una piccola molecola. Grazie, Luca Iovine, buonasera. Ok, grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siete psicologicamente pronti perché siamo al nostro gioco, eh? Al quiz. Dunque, con la vostra bella automobile siete finiti su un pianeta piccolo piccolo, praticamente sprovvisto di gravità. È una sfera di raggio 200 km. Però la sua superficie liscia è percorribile in lungo e in largo, quanto volete. Potete ordinare a una fabbrica meccanica super fornita di prodotti d'ogni genere per l'auto e per qualunque esigenza di trasporto, potete ordinare qualcosa che vi consenta di muovere su questo pianeta per almeno un migliaio di chilometri. Naturalmente la vostra auto è provvista di bombole d'aria che sono in grado di fornire al motore l'ossigeno necessario alla combustione. Su un pianeta di questo genere non ci sarebbe atmosfera sufficiente nemmeno per far respirare una zanzara. Bene, cosa chiedete alla fabbrica? Prima possibilità, un sistema di binari che consentano di ancorare l'auto al terreno, altrimenti l'assenza pressoché totale di gravità vi terrebbe in aria a galleggiare e volteggiare. Ci scriverete binari. Seconda possibilità, I binari ci vogliono, ma ci vogliono anche 4 pieni di benzina da 50 litri l'uno per fare 1000 km, ovvero 200 litri, pensando di avere un'auto che faccia 20 km con un litro. Perché? Perché in assenza di gravità la potenza del motore si riduce anche se il consumo resta uguale. Ci scriverete 200 litri. Terza e ultima possibilità, i binari ci vogliono sempre, questo ormai l'abbiamo capito, ma di litri di benzina ce ne vogliono meno, ne bastano 100 e dovrete capire perché ce ne vogliono 100 in questo caso. Ci scriverete 100. Dove? Beh, sempre con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Inventare la mente, come il cervello crea la nostra vita mentale. È un libro di Chris Frith, edito da Cortina. In collaborazione con IBS.it. Vi segnalo che lavorando in una redazione scientifica è cosa molto frequente in questi ultimi anni ricevere notizie corredate da immagini che raccontano di ricerche sul funzionamento della nostra mente e in particolare di come col passare del tempo si scoprano aree del nostro cervello dedicate a certe specifiche funzioni. Ma il quadro è molto complesso, le ricerche sono veramente tante, non è facile affatto orientarsi. In casi come questi una mostra può avere una funzione didattica molto importante. Si costruisce un percorso, si disegna uno stato dell'arte delle conoscenze acquisite e quindi il risultato finale è efficace. Ai confini della coscienza è il titolo di questa mostra, ovvero non abbiamo espresso un desiderio e basta, perché Lorenza Cusani, divulgatrice e organizzatrice appunto di mostre, ha proprio costruito quel percorso di cui vi dicevo poco fa. Si è aperta questa settimana a Torino, nelle sale del Castello del Valentino. La mostra affronta il problema del funzionamento della nostra mente osservandolo da una finestra particolare, che poi è anche quella più affascinante e più difficile, ovvero la coscienza. È una sola, ve ne sono tante messe in rete. Cosa sono le patologie della conoscenza? È un territorio immenso che si è appena iniziato ad esplorare. Ai confini della coscienza, quindi, è questa mostra che si è appena aperta a Torino. Vi segnalo che sul nostro sito, a partire dall'home page, vedrete un link ad una sezione in cui vi raccontiamo un po' di questa mostra. Il suono ha bisogno di orecchie che lo percepiscano, ma la musica, voi direte, ancora di più. Se avessimo 4 orecchie sarebbe ancora più bello. Non v'è dubbio che essere avvolti dai suoni ad un concerto, ma anche sdraiati in una poltrona con delle ottime cuffie sulla testa, è un'esperienza di grande piacere. Ma la musica non è solo udire, la musica è anche vibrazioni nel corpo, è anche la sensazione fisica di seguire un ritmo. Un gruppo di ricerca canadese della Ryerson University ha realizzato una sedia che riesce a catturare qualunque ritmo e a tradurlo in una serie di vibrazioni. Dunque non pensate a qualcosa di molto grezzo che semplicemente entri in vibrazione con il ritmo di base, per esempio quello tipicamente delle batterie. Basterebbe, allora sarebbe una tecnologia di basso profilo, basterebbe mettere una mano sugli amplificatori e si avrebbe qualcosa di equivalente. No, la sedia dei canadesi è molto sofisticata, riesce a cogliere diverse vibrazioni contenute in un brano musicale, è stata naturalmente progettata per persone prive dell'udito, che già sappiamo essere persone interessate a un ascolto della musica attraverso vibrazioni. Con questo strumento e con una loro maggiore sensibilità probabilmente la musica potrà diventare un'esperienza molto più suggestiva di quanto sia ora, speriamo. E qui mio ospite è un collega della carta stampata, Giuseppe Caravita. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti. Giuseppe Caravita è un giornalista scientifico del Sole 24 Ore che abbiamo questa sera in studio per un lavoro di indagine che ha portato avanti negli ultimi mesi. Tu, Giuseppe, hai raccolto molti dati su diverse ricerche scientifiche sviluppate in vari centri di ricerca e in diversi paesi. Ricerche sul clima e in particolare sulla possibilità che siano possibili cambiamenti rapidi, improvvisi, quelli che in gergane scientifico inglese sono chiamati abrupt climate change, cioè modificazioni brusche, cambiamenti generati dalle modifiche nelle temperature e in grado di attivare comportamenti del nostro pianeta certamente non facili da gestire, per esempio il liberarsi in atmosfera di grandi quantità di metano oggi custodite in bacini lì imprigionate da basse temperature. Giuseppe Caravita, facci un quadro dei dati che hai raccolto e poi sottoporremo i quesiti a due ricercatori, i nostri ospiti. Beh, il punto focale è l'Artico. L'Artico è sicuramente il punto più fragile del sistema climatico globale. Bastano pochi decimi di grado in aumento delle temperature perché il delicato equilibrio artico possa destabilizzarsi. L'Artico è particolare lo scrigno in cui sono contenute miliardi di tonnellate di metano sotto forma di idrati di metano, praticamente metano congelato sotto la superficie del mare Artico, e permafrost, cioè terreno che rimane sempre congelato, torba in qualche modo, o terreno ricco di elementi vegetali congelati. Nel momento in cui si dovesse scongelare questo permafrost, comincerebbe a fermentare e emetterebbe anch'esso enormi quantità di metano. Il metano, come gas, è 20 volte più a effetto serra di quello della CO2. Allora, questa piccola premessa per capire che cosa c'è là sotto. Nel 2007 è stato rilevato uno dei più forti fenomeni di scioglimento di ghiacci artici mai registrati nella storia. Contemporaneamente, l'Agenzia Meteorologica Americana, la NOAA, ha emesso nell'aprile del 2007 una stima per cui per la prima volta dopo anni di stasi, di relativa, diciamo, non crescita, il metano presente, la concentrazione di metano presente nell'atmosfera aveva ripreso a salire. Non per quantità enormi, un ordine di grandezza 10 volte meno della CO2, ma con un trend di nuovo in crescita, in salita. Gli studiosi si chiedevano come mai ha ripreso a crescere il metano. Al che il sospetto, diciamo anche la paura, è venuta subito sulla questione permafrost e artico in fase di riscaldamento e di scioglimento di ghiacci, possibilità di fuoriuscita di metano, possibilità anche cumulativa di fuoriuscita di metano. Negli stessi mesi, anzi negli stessi giorni, al congresso geologico europeo dell'Associazione Geologica Europea, un team di studiosi russi ha presentato un paper su una campagna di rilevazioni fatta nel 2005, cioè 2 anni prima, in cui si è rilevata la fuoriuscita di metano nel mare antistante la Siberia, quindi con forti concentrazioni di metano nell'acqua e concentrazioni anche piuttosto forti di metano fino a 1000 metri nell'atmosfera superiore. Un altro campanello d'allarme. A quel punto l'agenzia dell'UNEP, l'Agenzia per l'Ambiente dell'ONU, ha deciso di dedicare nel suo rapporto annuale del 2007 uno studio approfondito sulla questione permafrost e sulla questione metano. Lo studio rilevava che c'è questo rischio di una fuoriuscita di metano, ma fino adesso, almeno rispetto ai dati conosciuti negli scorsi anni, si è trattato di un fenomeno cronico, fondamentalmente cronico, che avviene sempre e di dimensioni non comparabili a quello invece delle massicce emissioni di CO2 che avvengono attraverso la combustione antropogenica. Bene, passiamo al 2008. L'argomento è rimasto di attualità. Le campagne di rilevazione sono continuate. I canadesi hanno scoperto e messo in evidenza che al largo dell'Alaska esistono dei punti dove il metano fuoriesce a bolle e li tengono sotto osservazione. I russi hanno continuato delle campagne di rilevazione, confermando i dati del 2005, quindi nell'estate del 2007 sono andati a ripetere le misurazioni e hanno confermato i primi risultati del 2005, cioè presenza di metano nell'acqua, presenza di metano nell'atmosfera a concentrazioni sostenute. Quindi i campanelli d'allarme hanno continuato a suonare. Il governo americano ha commissionato uno studio su 5 possibili punti di innesco di cambiamenti climatici cumulativi. Lo studio è stato guidato dal US Geological Survey. Uno di questi, il quinto punto di innesco, è appunto la fuoriuscita massiccia di metano dal permafrost e dall'Artico. Gli studiosi ci hanno lavorato per un anno sui dati più recenti disponibili sui satelliti e sulle rilevazioni geologiche e hanno concluso che per il momento si tratta di un fenomeno ancora di tipo cronico e di dimensioni limitate. Ma questo non esclude che con un forte riscaldamento nell'atmosfera, nell'emisfero nord e nell'Artico, si possa creare un problema più grave. Allora, questo è l'interrogativo. Sono possibili cambiamenti rapidi, improvvisi? Abbiamo posto la domanda a due ricercatori e il primo ospite che abbiamo stasera è Luigi Mariani. Buonasera Mariani. Buonasera. Agrometeorologo all'Università Statale di Milano. Ecco Mariani, ci dica, noi abbiamo posto appunto questo interrogativo, ci dica la sua opinione. Abbiamo due ordini di problemi a cui siamo di fronte. Da un lato dare un peso, diciamo, al fenomeno attualmente in corso, che è quello, diciamo, dell'aumento delle temperature che stiamo vivendo grosso modo dagli anni 80. E dall'altro lato parlare invece di discontinuità climatica, che è un altro, sono due problemi, due facce diverse della cosa, non sovrapponibili tra l'altro, perché in qualche modo le due cose hanno caratteristiche diverse. Sul primo aspetto, il fenomeno attuale dovremmo cercare, secondo me, per cercare di inquadrarlo anche storicamente dal punto di vista della climatologia storica, di porre in relazione col passato, per dire è un unicum oppure qualcosa di mai verificatosi in passato e così via. Però sull'altra questione, le discontinuità, dovremmo ragionare perché il clima ogni tanto si mette a saltare, cioè a fare dei salti bruschi, dei cambiamenti bruschi. E questo è un elemento anch'esso molto interessante, però le due cose meritano due analisi, diciamo, separate in qualche modo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riprendiamo il tema, sono qui in studio con Giuseppe Caravita, giornalista scientifico del Sole 24 Ore. Stavamo parlando con lei, Luigi Mariani, agrometeorologo presso l'Università di Milano. L'interrogativo, insomma, è molto secco, direi. È una fenomenologia possibile quella dei cambiamenti improvvisi che appunto possono generare condizioni atmosferiche gravi come quella di una grande presenza di metano in atmosfera, appunto? È una fenomenologia possibile perché è nel sistema. Il sistema climatico è un sistema che ha delle caratteristiche, è un sistema turbolento che si presta a cambiamenti bruschi, cioè resta in un certo stato per periodi anche lunghi e poi tendenzialmente passa rapidamente ad altri stati. Io, esempi nel passato, ne posso citare a iosa, cito gli eventi, ci sono dei nomi abbastanza ostici, mi rendo conto, però gli eventi di Dansker-Oeschger che sono successi nell'ultima era glaciale, sono 24 riscaldamenti bruschi, con salti, aumenti di temperatura dell'ordine di 5-8 gradi centigradi, avvenuti nel giro di decenni, e quindi cose rapide, non cose che si vedono nell'arco di migliaia di anni. E questi sono eventi che hanno sostanzialmente ancora oggi, sono avvolti nell'oscurità, come anche eventi di raffreddamento rapido che ci furono nel corso dell'ultimo periodo glaciale. L'ultimo che abbiamo avuto di fronte si chiama Trias recente. Eventi bruschi, attenzione, non pensiamo solo al caldo, pensiamo anche al freddo. Cioè un evento tipo Trias recente, sono 7 gradi in meno nel giro di qualche decina d'anni, cose che si vedono nell'arco della vita di un uomo. Ecco, qual è la causa di questo improvviso calo, capisce? E allora, non conoscendo bene le cause, siamo di fronte a un qualcosa su cui dobbiamo sempre mantenere una grande prudenza nel dire può succedere. Certo, può succedere. Mariani, la lascio qualche secondo, vado dal nostro secondo ospite, Mauro Guglielmin. Buonasera, Guglielmin. Buonasera. Lei è dell'Università Insubria e appartiene al Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale ed è geologo e climatologo. Ecco, Guglielmin, noi arriviamo a lei per il problema permafrost di cui abbiamo parlato prima, e cioè questo immenso serbatoio che a seconda del cambiamento climatico potrebbe innescarsi. Come vede lei la cosa? Eh sì, direi che è sicuramente certo che anche in passato e anche in un passato recente ci sono già stati o possono essere imputati a variazioni anche abbastanza limitate della temperatura dello strato più superficiale del permafrost, di immissioni in atmosfera sia di anidride carbonica che di metano, e questi ovviamente sono stati poi rilevati, come diceva anche Caravita, da alcune esperienze, alcune ricerche in atmosfera. Quindi sicuramente le mutazioni, il riscaldamento superficiale del permafrost può essere, può innescare meccanismi di feedback positivi, molto rapidi e molto molto importanti. Tu vuoi fare una domanda, Giuseppe? Sì, sì, sì. Okay. È stato rilevato in Alaska, diciamo a largo dell'Alaska, una serie di punti dove viene fuori proprio metano a bolle, si pensa dovuto a inizio di scioglimento degli idrati di metano che sono sul fondo del mare, dell'oceano. Siccome gli idrati di metano, oltre al permafrost, rappresentano una quantità enorme soprattutto nella zona artica, si parla di 10 gigatonnellate di idrati di metano congelati. Anche questo è sotto osservazione e potrebbe essere l'altra faccia del pericolo. Guglielmin. Sì. Ma diciamo che di pericoli ce ne sono diversi, nel senso che i gas idrati, è vero, in Artico sono un potenziale bacino di gas serra notevolissimo, soprattutto quelli che sono presenti nelle zone di mare poco profondo. I gas idrati che invece si trovano a maggiori profondità sono sicuramente in condizioni un po' più stabili. Però io vorrei sottolineare che in questo momento sono stati anche visti in recenti lavori su Nature, per esempio dell'anno scorso e di quest'anno, importantissimi contributi nel capire le variazioni di metano stagionali abbastanza improvvise che possono avvenire soprattutto nel tardo autunno, ma anche a volte in inverno, nel pieno inverno e in primavera, a causa di metano che è stato visto essere emesso dai laghi che si formano per lo scongelamento del permafrost, soprattutto nella Siberia settentrionale, che rappresenta un bacino incredibile di metano, di anidride carbonica, tra l'altro metano, sostanza organica immagazzinata tutta durante il Pleistocene, quindi abbastanza di recente, e che non è mai stata immessa in atmosfera, quindi è come se noi andassimo a bruciare del combustibile fossile che però di origine naturale e attraverso un processo naturale. Mariani. Sì, io vorrei riportare il discorso nostro sull'attualità ai raffronti col passato, perché noi dobbiamo cercare di un attimino di dare una prospettiva storica al tutto. Allora, la prospettiva storica come si pone? Il riscaldamento attuale è un unicum. Noi abbiamo 15 interglaciali negli ultimi 2,5 milioni di anni. Di questi 15 interglaciali, l'ultimo, per esempio, 125.000 anni fa, era nettamente più caldo dell'attualità. Siamo arrivati ad avere 2, 3, 4 gradi in più, le calotte glaciali erano in parte fuse, gli oceani erano più alti di 4-5 metri. Ecco, questi idrati di carbonio sui fondi oceanici, che cosa hanno fatto allora? Ecco, bisogna domandarsi questo. E poi veniamo più vicini a noi, vediamo l'ottimo post glaciale. Se prendiamo i dati di temperatura da calotte glaciali groenlandesi, cogliamo che tra 8.000 e 5.000 anni fa abbiamo avuto temperature nettamente più alte delle attuali. L'oceano era più alto di 2 metri. Ecco, quindi la sua argomentazione è che questa massa di idrati di metano non sembra essersi sprigionata in tal modo da creare una situazione di cambiamento climatico cumulativo e tale da rendere inabitabile il pianeta, fondamentalmente. Esatto, è questa la mia considerazione. Il fatto quantomeno dell'andare a cercare di capire in condizioni più drastiche rispetto alle attuali, e ne abbiamo una serie storica lunga di queste condizioni, capire cosa è successo o cosa non è successo. Ecco, questo secondo me è il modo scientificamente corretto di approcciare la cosa, senza limitarci a periodi troppo brevi. Occorre avere memoria storica su queste cose, che questo è il mio modo di leggere questa realtà. Ultimamente è uscito anche un altro articolo, diciamo, sul blog di Nature, che continua a dire che questa storia della fuoriuscita del metano continua a essere un mistero, cioè non riusciamo a venirne a capo con precisione. Guglielmin. Forse non sono stato chiaro prima. Infatti la questione del metano è proprio non tanto della cronicità, che in realtà non è ancora stata documentata in modo chiaro. Il problema è che sono stati visti delle modificazioni improvvise, recenti, di concentrazione di metano durante, per esempio, l'inverno e la primavera, e anche durante il tardo autunno in altre zone. Queste sono state spiegate recentemente, ripeto, l'anno scorso è uscito su Nature un articolo che lo spiegava, di Walter et al, e quest'anno di altri autori, lo spiegano con fenomeni relazionati non ai gas idrati, che essendo in mare hanno un rilascio più continuo, ma proprio alle zone umide e ricche di sostanza organica che ci sono nel permafrost, soprattutto della Siberia, ma anche dell'Alaska e di altre zone dell'Artico canadese. Questo però spiega queste fenomenologie di immissione di nuovo metano, non spiegano cambiamenti abrupti che ci sono in atto, perché di fatto non sono cambiamenti abrupti in questo momento in atto in quelle zone, paragonabili anche a quello che diceva Mariani in passato essere già avvenuti. Però si può sicuramente rispondere a quello che diceva Mariani, che per esempio l'influenza dei gas idrati, ma anche l'influenza del permafrost, nei periodi che lui citava, in gran parte non c'era stata, cioè quei periodi di grosso riscaldamento e raffreddamento non sono stati influenzati da permafrost e dai gas idrati, perché gran parte di queste zone erano tutte sotto la calotta artica e quindi non erano nelle condizioni attuali. Quindi quello che queste zone possono e potranno fare e provocare in realtà non è noto. Chiedo a tutte e due una brevissima battuta conclusiva. Mi pare che siate d'accordo sul fatto che qui c'è ancora molto da studiare, insomma. Sì, quello senza dubbio. Mariani? Sì, senza dubbio. Però adesso leggera contestazione, cioè il 125.000 anni fa, cioè l'ultimo post-glaciale, era più caldo dell'attuale, questo ce lo dice Vostok per esempio, e l'IPCC 2007, il report, scrive che i mari erano più alti di 4-5 metri, questo vorrà dire qualcosa. Allora in quelle condizioni, chiedo ancora, come si sono comportati i permafrost? Ecco, questa è il mio dubbio filosofico di fondo, che è supportato da una bibliografia abbastanza accettata. Ecco. Vuol dire qualcosa, Guglielmin? Sì, no, posso. Non contesto quindi assolutamente queste evidenze. Contesto il fatto che non si possono a volte paragonare evidenze riferite all'Antartide rispetto all'Artide, perché ormai è noto che esiste una certa differenza anche temporale tra quello che succede in Artico e quello che succede in Antartico. E soprattutto dico che una gran parte della zona attualmente in permafrost, anche 125.000 anni fa, non era esposta e quindi era comunque al di sotto della calotta glaciale Laurentide in Nord America e quella scandinava in Europa e probabilmente un'altra calotta di cui si discute ancora in Siberia, per cui le zone deglaciate in permafrost non potevano reagire con l'atmosfera durante quel periodo. E quindi ciò che è successo allora, sicuramente già più caldo di quello che sta succedendo adesso, non poteva tenere in conto di questa fenomenologia. Questo è quello che mi sento di dire abbastanza certo. Quindi noi dobbiamo tenere ancora maggior conto di questa nuova realtà che abbiamo in questo momento. Luigi Mariani, Mauro Guglielmin, grazie, buonasera. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Mi pare di capire che insomma bisogna studiare di più. Molto di più, sì. Non abbiamo ancora elementi chiari. Alla base di tutte le nanotecnologie c'è un fatto fondamentale che va sempre tenuto presente. Quando la materia la si va ad osservare ed anche a manipolare nelle piccole dimensioni, ovvero i milionesimi di millimetro, qui siamo appunto con le nanotecnologie, lì insomma si incontra un'altra fisica e un'altra chimica, è come entrare in un altro pianeta, con altre leggi della natura, si potrebbe dire. E si incontrano fatti sorprendenti, per esempio un elemento che ha proprietà di isolante elettrico, giù nel mondo infinitesimo, diventa l'opposto, ovvero un conduttore. Sono cambiamenti profondi questi. Ora, tre ricercatori statunitensi, uno della Brooklyn University a New York, l'altro della Texas University e il terzo della Scuola di Ingegneria di Princeton, hanno scoperto che per congelare dell'acqua si può confinarla in uno spazio molto piccolo, un tubicino di meno di un milionesimo di centimetro. Attenzione, lo si può congelare senza abbassare la temperatura, basta strizzarla in queste dimensioni e l'acqua si congela. Non l'hanno fatto direttamente, però l'hanno simulato con un programma che è ampiamente usato per capire come le cose vanno poi nella realtà. In molti altri casi, infatti, la simulazione ha poi perfettamente coinciso con la realtà. Pablo De Benedetti, Nicolas Giovanbattista e Peter Roschi, questi sono i nomi dei tre ricercatori, hanno collocato dell'acqua fra due superfici idrorepellenti e hanno poi iniziato a stringere progressivamente. Evidentemente sta qui l'origine del tutto, l'idrorepellenza innesca qualcosa che produce il congelamento. Ci ho detto però comunque, certo, ora bisognerà riprodurre il fenomeno realmente. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Allora, vi ricordo, siete finiti con la vostra automobile su un pianeta piccolo piccolo, senza gravità, dovete muovervi sulla sua superficie, che per fortuna è liscia. Di che cosa avete bisogno? Bene, in tutte e tre le risposte si citava l'esigenza di binari, e questo è ovvio, altrimenti niente terrebbe la vostra auto attaccata al suolo. Ma non bastano i binari, quindi la prima risposta, che citava solo questi, non è giusta. Ci vuole anche tanta benzina. Quanta? 200 litri sono troppi, perché il problema non è che in assenza di attrazione gravitazionale l'efficienza del motore diminuisca, e poi addirittura essendoci ben poca aria tutto dovrebbe essere molto più facile. Il problema è un altro, e la risposta giusta è la terza. Ci vuole un centinaio di litri. Il serbatoio, infatti, è quell'involucro che ha sul fondo il foro di aspirazione della pompa della benzina. È questa che butta la benzina nel motore, ma in assenza di gravità la benzina, appena il serbatoio si svuota oltre una certa misura, prende a galleggiare, e quindi addio aspirazione. Bisogna allora che il serbatoio sia sempre pieno. Quindi il consiglio, attenzione, è il seguente. Avete un'auto, per esempio, che fa 20 km con un litro? Bene, fate 20 km, vi fermate, mettete un litro e avete il vostro serbatoio pieno. La pompa aspira e voi proseguite. Fate 20 km, vi fermate ancora, mettete un litro e alla via così. Fate i conti, oltre i 50 litri di pieno iniziale ce ne vogliono altri 50 colpi di un litro per volta. Certo, se avete fretta è un guaio. Ma scusate, perché dovete avere fretta? Dove volete andare? Lo sapete, no? Vogliamo avere archivi sempre più grandi e vogliamo metterli in spazi sempre più piccoli. Questa è la corsa nella quale la computer science è impegnata da tempo. Certo che oltre una certa soglia, giù in basso, ci sono le cose più piccole. Le molecole, per esempio. Appunto, ascoltate Maurizio Menis. Da un punto di vista tecnologico si stanno compiendo sforzi e si stanno investendo anche capitali enormi per cercare di aumentare la densità di scrittura, cioè di comprimere quanti più dati possibili in uno spazio piccolo. Perché è importante miniaturizzare? Perché se si vuole aumentare la capacità di calcolo e appunto la capacità di maneggiare molti dati, questa della miniaturizzazione è una via sostanzialmente obbligata. Una soluzione molto interessante in prospettiva è arrivata dal laboratorio di magnetismo molecolare dell'Università di Firenze, laboratorio diretto da Roberta Sessoli, con cui collabora Matteo Mannini, che è stato primo autore di una importante pubblicazione su Nature Materials e che pone le basi per quella che potrebbe essere la tecnologia del futuro, che consentirà di memorizzare informazioni su scala nanometrica. Allora, cerchiamo di capire un po' di che cosa si tratta. Roberta Sessoli e Matteo Mannini sono entrambi in linea con noi. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dunque, intanto chiederei qual è il principio fisico a cui ci troviamo di fronte. Sessoli. Il principio fisico è sicuramente un principio nuovo, cioè che noi stiamo però studiando ormai da più di una decina d'anni. Mm-hmm. Posso dire che in effetti il laboratorio fiorentino è stato proprio un pioniere in questo campo. È stato il primo. Sì, ci sono alcune molecole che contengono un numero anche abbastanza piccolo di ioni metallici, sì, magnetici. Gli ioni metallici devono avere un momento magnetico dovuto agli elettroni spaiati, e a bassa temperatura, purtroppo per ora a bassa temperatura, il loro momento magnetico ha un effetto memoria, cioè se viene magnetizzato per l'applicazione di un campo magnetico e poi questo viene rimosso, la magnetizzazione è un po' come un ago della bilancia. Permane. Allora, questo è il concetto su cui si basano tutte le nostre memorie, hard disk. In realtà era pensato come un fenomeno cooperativo, cioè che dovesse necessariamente comprendere un numero tendente all'infinito di centri magnetici. Noi abbiamo dimostrato che questo non è necessario, che sono sufficienti pochi, addirittura può essere anche un solo ione metallico per dare questo fenomeno. Ecco Mannini, qual è però l'obiettivo? Che cosa si punta a realizzare? Abbiamo capito che ci vorranno un po' di anni e che siamo nelle fasi della ricerca di base. Direi che l'obiettivo è essenzialmente riuscire a localizzare una singola molecola, leggere la magnetizzazione, l'informazione in essa contenuta, ed anche attraverso sonde, attraverso dei microscopi particolari come i microscopi a scansione di sonda, arrivare a immagazzinare nella singola molecola un'informazione. Questo è un processo molto complesso che richiede il saper mettere, il saper maneggiare le molecole a questo livello, e quindi si utilizzano tutte quelle tecniche di autoassemblaggio molecolare che stanno adesso avendo un forte un forte sviluppo. Certo, sono come dire un po' le tecniche che stanno alla base di gran parte delle nanotecnologie. Sì, una nanotecnologia è un approccio di quello che si dice bottom up, cioè partiamo veramente dal disegnare i piccoli costituenti, il legante, il gruppo che si attacca alla superficie, la catena che collega questa superficie al centro magnetico, quindi è veramente un lego molecolare e tutte le parti della molecola vengono pensate e disegnate per le funzioni che poi devono andare a svolgere. Intanto, quali sono i materiali? Tra l'altro questo può essere interessante. Voi partite da un foglio d'oro, se ho capito bene. Mannini? In realtà si parte da una superficie piatta, mm-hmm. e su di essa viene evaporata un piccolissimo strato di oro, si parla di 200 nanometri, che sì. viene poi trattata per essere molto piatta. Poi questa superficie, che altro non è che una lastrina riflettente, la si immerge in una soluzione contenente mm-hmm. le nostre molecole, che poi si legano chimicamente alla superficie. Il processo che utilizziamo è un processo che permette di avere un solo strato di queste molecole sulla superficie e giocando sull'interazione tra la molecola e la superficie è anche possibile far sì che ognuna delle molecole si allontana dalle altre. Ok, e quindi si dispongono in qualche modo regolarmente queste molecole? Questo è un processo non così semplice, in realtà riuscire esattamente a ordinare ogni singola molecola rispetto alle altre è una delle sfide. Quali sono le vie che si aprono, le possibili applicazioni di questa nuova tecnologia, se così vogliamo chiamarla? Allora, sicuramente la cosa che immediatamente balza agli occhi è la capacità enorme di miniaturizzare le memorie mm-hmm. magnetiche utilizzando le molecole. Lei prima ha menzionato la legge di Moore e la crescita, il raddoppio ogni 18 mesi. Qui stiamo parlando di passare, in confronto alle attuali memorie disponibili, sì. di aumentare la densità di un fattore 1000, forse di un fattore 10.000, qualche cosa dell'ordine di 5.000 CD in un centimetro quadro. Quindi chiaramente un salto molto grosso. Va bene, grazie Mannini, grazie Sessoli. Grazie, buonasera. Io non saprei darvi una cifra, ovvero se sommiamo i tetti delle nostre tante chiese e chiesette nel nostro paese, che superficie verrebbe fuori? Oddio, andrebbero escluse molti edifici che sono opere d'arte, però molto altro spazio è certamente disponibile. Per fare che cosa? Allora ascoltate Chiara Albicocco che vi parla di Fiat Lux. Fiat Lux, sia fatta luce, una locuzione latina di biblica memoria, che è anche però il nome di un progetto piuttosto ambizioso, ma certamente ottimista. Installare un impianto fotovoltaico su ogni chiesa italiana. Non voglio aggiungere altro e vorrei che sia il suo creatore, il creatore del progetto, di questa bella idea, a spiegarci tutto. Allora, è qui con noi Alessandro Maria Fucili. Buonasera Fucili. Buonasera a voi. Ho subito detto un progetto ambizioso, ma lei ha idea di quante sono le chiese in Italia? Ma circa 25.000 gli edifici destinati al culto diretto, ma poi considerate tutte quelle che sono gli edifici annessi, quindi ecco. Immaginiamo le canoniche piuttosto che i monasteri. Piuttosto bene, che quindi si renderà ben conto di quanti pannelli fotovoltaici potrebbero servirle? Sarebbero tantissimi. Il bello è che in Germania questa cosa è stata già fatta, non in un'unica soluzione, non in poco tempo, in 10 anni può essere realizzato con serenità anche in Italia, dove abbiamo una solarizzazione ben maggiore. Ecco, allora ci dia qualche dettaglio in più di questo Fiat Lux, questo è il nome sì. del progetto. In realtà abbiamo giocato sull'unione di tante sollecitazioni, cioè il fatto che in Italia sarebbe possibile realizzare con un unico interlocutore una unione di tutti i piccoli impianti che sono stati realizzati e possono essere realizzati in futuro. Che cosa significa? Significa che un unico gestore per tanti impianti piccoli realizzati darebbero la possibilità di accedere a tutta una serie di ulteriori finanziamenti come le accise che ci sono sui carburanti e sulle bollette dell'energia elettrica, e questo darebbe la possibilità a questo unico gestore di far ricadere sui piccoli impianti realizzati in maniera capillare, ad esempio su tutte le chiese, di far ricadere una pioggia di denaro che altrimenti sarebbe utilizzata solo da grandi società, ad esempio Enel, Eni e altri, a volte non per sviluppare fonti di energia rinnovabile, ma per assimilate o assimilabili, che in Italia equivalgono a carbone e anche centrali idrocarburi. Quindi, se ho capito bene, la singola parrocchia o diocesi potrebbe diventare una piccola centrale elettrica? Sì, una piccola centrale elettrica che fa capo a un gestore unico, quindi una specie di consorzio attivo dove ogni parrocchia realizza il proprio impianto, ma il titolare dello stesso è un unico gestore. Noi abbiamo che non avrebbe scopo di lucro, ecco, no, vorrei specificarlo. Sarebbe proprio, ecco. Sì, sarebbe proprio quello di giocare sull'etica, cioè tutte le parrocchie realizzano questo impianto, un unico soggetto diventa gestore, e diventa gestore perché essendo unico gestore può attingere a queste ulteriori accise, può ottenere chiaramente costi differenti anche sull'installazione, perché un conto è montare un impianto, un conto è montarne 10 o 15 mila, quindi è chiaro che si entrerebbe in una logica di potere di acquisto differente, ma quello che noi proponiamo è un'etica produttiva, di ecocompatibilità pura, una produttività e una produzione al 100% pulita. A questo punto avremo un domino sotto profilo anche dell'immagine, della comunicazione, ecco, sì, nei confronti dei parrocchiani, delle persone che frequentano le chiese, vedono che gli impianti funzionano esattamente un po' come è successo in Germania. Quindi vedendo che gli impianti funzionano, vedendo che si risparmia, vedendo che è energia pulita, insomma, ci sarebbe una sorta di emulazione. Ci sarebbe un'emulazione collettiva positiva che porterebbe a sviluppare sempre di più una cultura ecologica. Volevo entrare un attimo nello specifico del progetto, perché lei in realtà mi raccontava fuori onda che non coinvolge soltanto il solare, in realtà lei ha un progetto più ambizioso, coinvolge l'eolico e non solo. Allora, in realtà questi stimoli sono venuti a due persone che sono i nostri capi tecnici. Goran Zepponi, che è stato quello che ha ideato tutto il meccanismo legato all'unione di mini eolico e di fotovoltaico, che secondo noi è vincente, e poi un maestro del web che si chiama Giuseppe Ruggirello, che io devo sempre ringraziare, che ha ideato il sistema di webcam integrato. In pratica, la logica è che il fotovoltaico già è vincente, lo sappiamo, ma il mini eolico è in realtà il futuro. Cioè, sappiamo che in una possibilità di diffusione così enorme, ad esempio su luoghi alti come i campanili, dei piccoli impianti eolici, quindi del mini eolico da 1,5 kW, 2, si integrano in qualsiasi contesto, anche in centri storici monumentali, perché sono a zero impatto, diciamo, estetico. È quella, ecco, della prostituzione, a che cosa ci webcam, serve? Esatto. Va considerato questo, che i siti meteo, che hanno sistemi di webcam diretti sulle varie zone, sono i siti più cliccati in Italia, ma direi al mondo. Noi installeremo una webcam su ogni impianto integrato. Cosa significa? Che ci sarebbero migliaia di webcam immediatamente presenti sul territorio, dedicate all'analisi del sistema meteo. Quindi creeremo un nuovo network meteo che in realtà inquadra gli impianti, sia il fotovoltaico che il mini eolico, dà una risposta su quella che è la situazione meteo di quel posto, ma in realtà induttivamente fa vedere alle persone la produttività degli impianti. In questa maniera creeremmo una induttiva conoscenza anche tecnica di quelli che sono i ritorni economici e di quelli che sono i risvolti etici, ecologici e ambientali soprattutto. Allora, lei insieme ai suoi collaboratori, questo dobbiamo specificarlo, ha già presentato il progetto all'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero, che è un po' l'ente che si occupa dell'economia e dell'amministrazione economica della Chiesa. Siamo in attesa di risposta e chiaramente Fucili ci faccia sapere. Sì, appena avremo una risposta la diffonderemo a Benissimo. Voi senza dubbio, per l'attenzione che avete già dimostrato. In bocca al lupo, Fucili. A voi, grazie. Dobbiamo stare attenti ai nostri cetacei che pascolano nel Mediterraneo fra la Liguria e la Corsica e la Sardegna. Non sono malmessi, come si è detto in questi giorni, ma questo grande parco marino ha bisogno di tutele. Abbiamo iniziato così, questo è quanto Moebius di questa settimana aveva da dirvi. Vi ricordo il nostro sito www.moebiusonline.eu e poi su Facebook ci trovate con Moebius Scienza. Buonasera a tutti e a tutte e alla prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.